Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Una miriade di persone, però siccome sono ancora un ragazzino e ho intenzione di andare avanti e togliermi altre soddisfazioni, questa la voglio dedicare a Gianmarco Tamberi, che una medaglia l'avrebbe sicuramente presa, invece è stato sfortunato, per cui ti mando un bacio, anche non fraintendere, è molto d'incoraggiamento. Tieni duro perché sei un ragazzino, sei giovane e alla prossima Olimpiade ti faremo tutti per te. Avete sentito la voce entusiasta, tenera, anche di Alex Zanardi, campione paralimpico che ha vinto un'altra medaglia d'oro nella handbike e l'ha dedicata questa medaglia a un suo collega, insomma, che è stato meno fortunato, ha avuto un infortunio. Però diciamo Zanardi sicuramente esempio, modello di grande umanità, di un grande spessore umano, il contrario di chi ha spinto in qualche modo, ha istigato al suicidio questa giovane donna di 31 anni di cui parlano molto le cronache, che da ieri sera che è stata perseguitata per aver, più o meno ingenuamente, partecipato a un gioco pericoloso, insomma un video si era fatta filmare da qualcuno durante un atto sessuale, questo video poi è stato messo in rete a sua insaputa, insomma dopo un anno e mezzo non ce l'ha fatta più a forza di umiliazioni, persecuzioni eccetera e si è suicidata. Di questo caso parleremo con due ospiti qui a Effetto Notte. C'è un altro caso che in qualche modo si lega per questo utilizzo disumanizzante della tecnologia. Poi parleremo anche ovviamente di politica. Per i vostri commenti e le vostre domande sempre due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure il numero per gli SMS e WhatsApp, che è 349-238-6666. Ma subito andiamo a sentire quali sono le notizie più importanti della giornata. Referendum costituzionale, dopo le polemiche sul sì al referendum dell'ambasciatore americano in Italia, Mattarella dice la sovranità è sempre degli elettori, intanto arriva l'appoggio della Merkel alle riforme di governo di Renzi. Francia, diversi arresti a Parigi per terrorismo, fermato anche un quindicenne pronto a compiere un attentato. Conti e Unione Europea, monito di Juncker, sia la flessibilità ma il patto resta e sulle pensioni scoppia il nodo lavoratori precoci, costi alti. Migranti, piano europeo da 44 miliardi per l'Africa e i partner dell'Est. Da ottobre guardie di frontiera, intanto i primi indagati per il CARA di Foggia. Il dramma della 31enne suicida, aveva dovuto pagare anche le spese giudiziarie la donna che si è tolta la vita dopo la diffusione dei suoi video hard sul web. E a Rimini una minorenne viene filmata mentre viene violentata e poi postata su internet. Via libera la fusione Bayer-Monsanto, nasce il big dell'agricoltura, siglato l'accordo definitivo. Monte dei Paschi, a partire dal 20 settembre, Marco Morelli sarà il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Editoria, via libera unanime del Senato al tetto per gli stipendi Rai. Sport, Champions League, in campo la Juventus contro il Siviglia e alle Paralimpiadi un'altra medaglia d'oro per Alex Zanardi. Partiamo quindi dal dibattito sul referendum, dopo le polemiche suscitate ieri dal sì al referendum costituzionale dell'ambasciatore americano in Italia, ne abbiamo parlato. Sul tema è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita a Sofia, il Capo dello Stato ha ribadito: sono gli elettori a decidere, viviamo questo appuntamento con serenità, stiamo. Il mondo si è molto interconnesso, quindi ogni avvenimento in un paese importante, e l'Italia è un paese importante, è seguito con attenzione anche all'estero. Naturalmente questa considerazione non muta in nulla il fatto che la sovranità sia esclusivamente demandata agli elettori. Intanto arriva l'appoggio della cancelliera tedesca Merkel alle riforme del governo, per esempio quella sul lavoro, anche se Berlino non si esprime sul referendum. Renzi spinge intanto per una campagna referendaria, dice, il più pacata possibile e afferma che la consultazione non tocca i poteri del Presidente del Consiglio. Nuova apertura sull'Italicum, dice, a me piace, ma se vogliamo cambiarla per dare un segnale, facciamolo, ci siamo. E intanto bacchetta Di Maio dei 5 Stelle, dice, io come Pinochet offende in questo modo la Repubblica. Il Movimento 5 Stelle nel frattempo frena sul governo di scopo evocato ieri da Di Battista durante la trasmissione 8 e mezzo, poi comunque torneremo su entrambi i temi di politica più tardi. Parliamo della manovra finanziaria, il governo deve fare i conti con una ripresa che non c'è. È un contesto economico delicato quello con il quale deve fare i conti il governo alle prese con il cantiere della manovra. Non solo il PIL che sarà rivisto a ribasso dopo la frenata del secondo trimestre, ma anche l'inflazione che non dà seri segni di risveglio, a riprova che i consumi non ripartono. Lo confermano l'Istat nel dato anno su anno e la Confcommercio che parla di rallentamento nei primi 7 mesi. Bisogna rilanciare la domanda interna, dice allora il presidente Sangalli. E la via è obbligata, dare subito la certezza a famiglie e imprese che le tasse diminuiranno. L'obiettivo principale di Palazzo Chigi resta comunque la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia, operazione che vale 15 miliardi. Poi ci sono le pensioni. Il governo ha di fatto chiuso positivamente il confronto con i sindacati. Resta il nodo dei lavoratori precoci e molto difficile da affrontare, spiega il ministro del Lavoro Poletti, perché ha un livello di costo molto alto. Quanto alla no tax area dei pensionati, dice ancora Poletti, va equiparata a quella dei lavoratori dipendenti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora ci spostiamo in Francia, che continua a essere sotto la minaccia del terrorismo. Oggi sono stati diversi arresti a Parigi, fra i fermati anche un quindicenne. Dopo la Germania, la Francia. Anche Parigi intensifica le azioni preventive per limitare la minaccia terroristica. Un adolescente di soli 15 anni è stato arrestato a Parigi con l'accusa di essere pronto a compiere un attentato imminente. Il fermo è avvenuto nel 20° arrondissement. Il giovane sarebbe stato in contatto con il jihadista Rachid Kassim, il cui nome è apparso nell'inchiesta che ha portato all'arresto di un commando di sole donne, inchiesta nata dal ritrovamento di un'auto carica di bombole di gas nei pressi di Notre Dame. Il terrorista dell'ISIS Kassim si sta staliando sempre di più come una figura estremamente pericolosa, in grado di guidare a distanza cellule jihadiste in Europa. Kassim avrebbe infatti ispirato anche l'uccisione di un poliziotto e della sua compagna Magnanville a giugno e l'attacco alla chiesa di Rouen a luglio. Già sabato scorso un altro adolescente, anch'egli quindicenne, era stato arrestato nella capitale francese. Anche in questo caso il sospetto dell'autorità era che intendesse passare all'azione. Il ministro dell'interno, Cazeneuve, ha sottolineato il lavoro estremamente intenso dei servizi di sicurezza, aggiungendo che le app di messaggistica criptate sono sempre più utilizzate dai jihadisti dell'ISIS in Siria per incitare aspiranti kamikaze a compiere attacchi in Europa. Ne può passare inosservato il fatto che nelle ultime settimane gli arresti abbiano riguardato soprattutto donne e minori, un segnale inquietante. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Unione Europea, stamattina c'è stato il discorso del presidente della Commissione Europea Juncker a Strasburgo. Punto centrale il patto di stabilità, che non deve diventare, ha detto, un patto di flessibilità. Poi gli altri temi: investimenti, Brexit, terrorismo e immigrazione. Un'Europa che protegge è un'Europa che si difende fuori e dentro i propri confini. Solo alla fine del suo discorso a Strasburgo, Juncker parla di terrorismo. Ogni volta che qualcuno entrerà o uscirà dall'Unione, registreremo luogo, data e motivo dello spostamento, spiega il presidente della Commissione europea, che dice: tuteleremo i minori non accompagnati. Poi annuncia il piano di investimenti per l'Africa e i partner dell'Est da 44 a 88 miliardi e rilancia anche sul Fondo Europeo per gli investimenti, nato nel 2015. Proponiamo di raddoppiare la durata e la capacità finanziaria fino a 630 miliardi al 2022. Temi centrali anche l'austerity e la crescita, sia la flessibilità nell'applicazione delle regole di bilancio, ma con intelligenza, sottolinea Juncker, che infine ammette: è in atto una crisi esistenziale, la disoccupazione è troppo alta, ma l'Unione in sé non è a rischio, neanche dopo la Brexit. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si è parlato quindi anche di migranti, avete sentito di questo piano europeo da 44 miliardi per l'Africa e per i partner dell'Est. Oggi intanto la Guardia Costiera italiana ha coordinato 6 operazioni di soccorso su 5 gommoni e un barchino in difficoltà, per un totale di circa 650 migranti salvati. Sono intervenute unità della Marina Militare, una dell'organizzazione non governativa MOAS, una nave della Marina Irlandese che ha recuperato anche 6 corpi privi di vita. E ci sono i primi indagati per la gestione del CARA, del centro di accoglienza di Borgo Mezzanone a Manfredonia, in provincia di Foggia. I reati che sarebbero ipotizzati sono, a quanto è dato sapere, corruzione, truffa, falso e falso in bilancio. E arriviamo così a questo dramma della giovane donna, 31enne, suicida, aveva dovuto pagare anche le spese giudiziarie. La donna che nel napoletano si è tolta la vita dopo la diffusione dei suoi video hard sul web. La decisione era d'obbligo. La procura di Napoli Nord apre un fascicolo per istigazione al suicidio sulla morte di Tiziana Catalano, la 31enne che si è tolta la vita dopo la pubblicazione in rete di suoi video hard. Vengono convocati familiari ed amici, compresi quelli che avrebbero postato sui social quei filmini privati, e si cerca di ricostruire cosa abbia indotto la donna, che da un anno stava combattendo per il suo diritto all'oblio, a stringere quel foulard intorno al collo e lasciarsi andare. L'8 agosto il giudice Monica Marrazzo aveva accolto in parte le sue richieste richieste, ma Tiziana era stata anche condannata a pagare 20.000 euro di spese legali nei confronti di alcuni giganti della rete, YouTube, Google, Yahoo, che avevano già provveduto alla rimozione dei video. In realtà, tra risarcimenti attesi e quelli dovuti, la somma quasi si equivale, ma forse anche questa decisione, oltre all'enfasi che la stessa sentenza aveva avuto sulla stampa locale, potrebbe aver richiamato di nuovo alla memoria quella gogna mediatica che stava perseguitando la donna, tanto da indurla a prendere a breve il cognome della mamma e lasciare il paese di origine, Casalnuovo. Ora su questa vicenda è la famiglia ad invocare quell'oblio disperatamente cercato da Tiziana, a cominciare dalla rete. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è uno dei temi, vi dicevo all'inizio, che approfondirò tra poco con due ospiti, e così come un'altra vicenda che fa discutere, quella di una 17enne stuprata in discoteca in provincia di Rimini. La scena poi è stata ripresa da un cellulare e finisce su WhatsApp. Verranno interrogate le ragazze che erano con lei e si indagherà sull'identità dell'uomo che l'avrebbe violentata. Nell'inchiesta che vede protagonista una 17enne del riminese. Un sabato sera normale, la ragazza in discoteca balla e beve. Troppo, al punto da venire trascinata in bagno da un uomo a malapena conosciuto che la violenta. Alcune ragazze che sono con lei, invece di intervenire, si arrampicano sulla porta del bagno vicino e filmano la scena con il cellulare. Poi la pubblicano su WhatsApp ed è allora che la giovane decide di raccontare tutto alla madre e poi di sporgere denuncia. La 17enne è stata sentita ma ha potuto raccontare poco, dato che i suoi ricordi di quella sera sono molto confusi. Si indaga anche su chi abbia servito alcol alla minorenne. Francesca Conti, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questi temi quindi dopo, intanto parliamo anche di questa notizia: il via libera alla fusione tra Bayer e Monsanto, accordo fatto, definitivo. Le due società hanno ufficializzato l'intesa, precisando che l'azienda farmaceutica tedesca, la Bayer, pagherà $128 in contanti per ogni azione Monsanto. Secondo Coldiretti, l'acquisizione è stata spinta dal flop delle semine OGM, crollate del 18% in Europa nel 2015 e scese per la prima volta a livello mondiale. Monte dei Paschi di Siena, dopo le dimissioni di Viola, a partire dal 20 settembre Marco Morelli sarà il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Una notizia anche per l'editoria, via libera unanime, non solo un solo astenuto del Movimento 5 Stelle, dall'aula del Senato all'emendamento al disegno di legge dell'editoria che fissa per gli stipendi Rai il tetto di 240.000 euro previsto per gli amministratori pubblici. Il limite si applica agli amministratori, al personale dipendente e ai consulenti della TV pubblica. Meteo, vi devo dare purtroppo una triste notizia: arriva l'autunno, magari qualcuno è contento con un anticipo di qualche giorno rispetto a quello astronomico fissato, lo sapete, per il 23 settembre. Da domani sull'Italia i primi segni dell'autunno che si presenta a partire dal centro nord con piogge temporali e un sensibile calo, purtroppo, dico io, delle temperature. Dinosauri, potrebbe essere stata la materia oscura, ogni tanto torna fuori la materia oscura, la sfuggente forma di materia che costituirebbe circa un quarto dell'intero universo, ad aver causato l'estinzione dei dinosauri 65 milioni di anni fa. Ad azzardare l'ipotesi furono nel 2014 due fisici teorici dell'Università di Harvard, con uno studio pubblicato sulla rivista Physical Review Letters, e a comprovarla potrebbero essere i dati in arrivo da Gaia, la missione europea progettata per disegnare la mappa in 3D della galassia e rintracciare la presenza di questa benedetta materia oscura. Non è oscuro nulla nello sport per Dario Ricci, che ci aggiorna sulla Champions. Poi parleremo anche delle Paralimpiadi, Juventus in campo, vero Dario? Sì, beh, troppo onore Roberta. No. Direi che passando alla cronaca, che è sicuramente più importante, siamo alla mezz'ora allo Juventus Stadium, ancora 0-0 tra Juventus e Siviglia, del resto partita prevedibilmente difficile contro gli ostici spagnoli per i bianconeri, che hanno avuto un paio di buone occasioni con Khedira, che però non le ha sfruttate. Da segnalare che Allegri ha lasciato per il momento in panchina Pjanic, mentre adesso la Juventus si fa in avanti, ma nulla di fatto. Il Pjanic in panchina, sostituito dal primo minuto come titolare da Lemina. Ti dico anche qualche altro risultato rapidissimamente della serata, sì. Siamo alla mezz'ora su tutti i campi. Significativo il 2-0 dell'Leicester, il Leicester di Claudio Ranieri, sul campo del Bruges. Porto avanti 1-0 sul Copenaghen, 3-0 del Dortmund a Varsavia contro il Legge. In questo momento raddoppia il Monaco sul campo del Tottenham ed è forse la sorpresa più grande. Nell'altra partita del girone della Juventus, il Lione è in vantaggio per 1-0 sulla Dinamo Zagabria, e poi ancora 0-0 tra Real Madrid e Sporting, mentre il Manchester City è avanti 2-0 sul Borussia Mönchengladbach. Grazie Dario Ricci, poi di nuovo torneremo con lo sport. Intanto, dice Andrea da Bologna, gli endorsement al referendum hanno ufficializzato chi ha collocato codesto presidente del Consiglio. Insomma, vabbè, questi sono i soliti complottisti, retroscena. Comunque, certo, è stata molto criticata questa invasione di campo dell'ambasciatore americano. Credo non sia piaciuto neanche lo stesso Renzi. Poi, invece, vedo diversi messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666 sulla brutta storia di questa 31enne spinta al suicidio da questa infinita umiliazione sul web. Ne parleremo tra pochissimo con gli ospiti. Pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Ci sentiamo un momento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti per avere il quadro esauriente della giornata, quindi c'è stato prima il riassunto di questa giornata che si sta chiudendo. Roberta Giordano con voi, adesso comincerò con gli ospiti a approfondire alcuni argomenti in particolare. Tra poco vi ricordo comunque i titoli, se non avete acceso puntualmente alle 21, e poi passeremo appunto a parlare di questa vicenda tristissima, drammatica, che ci dà l'idea di come davvero la tecnologia abbia cambiato la nostra vita e per certi versi anche molto in peggio. E purtroppo non se ne è consapevoli fino in fondo, non soltanto i più giovani ma anche gli adulti. Ma prima di tutto i titoli. Referendum, Mattarella dice dopo l'endorsement, il fatto che si sia schierato per il sì dell'ambasciatore americano ieri per il sì al referendum, Mattarella dice è il popolo che resta sovrano. Intanto Renzi auspica una campagna pacata sul referendum, mentre la cancelliera Merkel approva le riforme fatte dal governo Renzi. E poi monito di Juncker, sì alla flessibilità ma il patto resta, dice il Presidente della Commissione Europea. Intanto per le pensioni scoppia il nodo dei lavoratori precoci, ci sarebbero costi alti. Suicida per il video hot su web, doveva pagare le spese legali questa donna di 31 anni che si è suicidata. E poi la vicenda di una minorenne violentata in bagno a Rimini, le amiche filmano con un telefonino. Serie di arresti a Parigi, 15enne pronto ad attentati, in contatto col burattinaio Kassim, e quindi continua purtroppo l'allerta terrorismo in Francia. Migranti, piano dell'Unione Europea da 44 miliardi per l'Africa e per i partner europei, da ottobre iniziano a operare le guardie di frontiera. Via libera alla fusione tra Bayer e Monsanto, nasce il big dell'agricoltura. E poi c'è il via libera unanime del Senato al tetto degli stipendi per la RAI. E Zanardi alle Paralimpiadi che supera se stesso, trionfo d'oro anche a Rio. Quindi, come dicevo, parliamo di questa bruttissima, drammatica storia di persecuzione di pubblico ludibrio che ha spinto una donna di 31 anni nel napoletano a suicidarsi. Il caso che riguarda Tiziana Cantone. Da un anno e mezzo la sua vita era diventata un inferno. Aveva girato un video hot e a sua insaputa poi era finito sul web, diventando virale con tanto di nome e cognome. Una spirale di vergogna, di umiliazione, insomma, che l'aveva costretta a fuggire dal suo comune, a cercare un'altra identità, a cambiare nome, a chiedere anche alla giustizia di il diritto all'oblio, cioè che fossero cancellati questi link e questo video che continuava a girare da un anno e mezzo, e che ieri poi questa situazione così pesante l'ha portata a suicidarsi nell'abitazione dove viveva da qualche tempo con la madre. Era una bella ragazza, la definiscono con un corpo da modella, aveva 31 anni, e in questo modo però purtroppo si chiude questa drammatica vicenda che per mesi aveva riempito le cronache. C'erano stati tanti sbeffeggiamenti, addirittura delle magliette con una frase che lei diceva in questo video. Si indaga per istigazione al suicidio. E poi oggi, anche se è una storia diversa, c'è un'altra vicenda, che è quella di una ragazzina minorenne violentata in discoteca a Rimini da un albanese che l'ha trascinata completamente ubriaca nel bagno, e delle sue amiche che si sono arrampicate sul muro di questo bagno e hanno filmato il tutto e poi messo su WhatsApp. È stata aperta un'inchiesta anche qui, ma voglio coinvolgere notissimo psichiatra Paolo Crepè. Buonasera professore. Buonasera, buonasera a lei. Che tra l'altro ha scritto un libro appena pubblicato da Mondadori che si intitola Baciami senza rete, che è sempre un riflettere, no? Un continuare a discutere sulle conseguenze volute o indesiderate del grande cambiamento che le nuove tecnologie digitali stanno imprimendo alla nostra quotidianità. Professor Crepè, da una parte forse possiamo dire che la gogna che prima magari era in piazza, no? E adesso ancora magari nei paesi più arcaici continua, adesso si è spostata sul web, però con nuove modalità, c'è stato proprio un cambio antropologico. Non c'è dubbio, intanto i numeri, perché la gogna di una volta era della piazza del paese che parlava tizio di casa di San Prodi. Era comunque circoscritta, insomma. Era circoscritta. Adesso quel filmato di cui parlava lei lo possono scaricare in Nuova Zelanda, in California. Mm. E quindi diventa anche la sensazione di chi è offeso, diventa proprio, si assimila sempre di più all'impotenza totale. Poi l'oblio digitale, insomma, adesso che non ci prendono anche in giro perché questo è eccessivo, l'oblio non esiste, perché il web funziona istantaneamente. Se qualcuno volesse aiutare gli utenti del web, dovrebbero fare un oblio istantaneo. Allora saremo alla pari, ovvero quella signora, quella ragazza avrebbe potuto e dovuto poter togliere quelle immagini nell'immediato, cosa che non è stato possibile. Avere l'oblio un anno dopo, lei capisce che serve a nulla, se non quasi addirittura una presa in giro. Certo, comunque c'è anche poca, allora intanto sempre meno empatia, sempre meno consapevolezza dei rischi di chi magari fa una leggerezza e poi se ne pente, e dall'altra parte invece, come si può dire, crudeltà inconsapevole di chi diffonde e continua a perpetrare e a perpetuare anche queste immagini, sbeffeggiando senza fine, non rendendosi conto che davvero poi le conseguenze sono gravissime, no? Sulle persone concrete, quindi non virtuali. Guardi, mettiamola così, i social network sono come l'acqua bollente che fa venire a galla gli gnocchi, sono uno strumento, gli gnocchi non verrebbero a galla se non ci fosse l'acqua bollente. Poi ci accorgiamo che a volte gli gnocchi sono buoni, a volte sono assolutamente immangiabili, e così è, ci stiamo attraverso questo straordinario strumento accorgendo non di alcuna piccola parte dell'umanità, ma dell'umanità, perché nessuno di noi conosceva così tanta gente in un colpo solo. E naturalmente viene su quello che l'umanità ha in sé, il vigliacco, la persona cinica, l'indifferenza. Scopriamo di essere molto peggio di quello che pensavamo di essere, questo è il problema. Allora, che cosa possiamo fare? Innanzitutto, per esempio, parlarne. Le famiglie, i genitori devono parlare con i figli, le scuole devono parlare, non devono solo proibire il telefonino sì, il telefonino no. Bisogna anche capire cosa ci fai con quel telefonino, perché lo usi, come lo usi, che cosa fai, cosa metti in rete. Una ragazzina di 13-14 anni che mette in rete fotografie non proprio della prima comunione, lo sa la mamma, lo sanno i genitori, perché lo fai? Lo fai per narcisismo, lo fai per farti vedere, lo fai perché pensi che se non, tu non lo facessi saresti fuori dal giro. Non è vero, bisogna dirlo ai ragazzi. Non è vero che se non sei in, sei out. È una balla, questo va, la dite chi vende i telefonini, che sono naturalmente molto potenti, come sappiamo. Professor Crepè, io la ringrazio, ricordo il libro Baciami senza rete, appunto, che è collegato anche a questi temi. Grazie professore. E adesso, grazie a lei, buona serata. Buona serata. Farei sentire che cosa ha detto il garante della privacy su quanto accaduto, Soro. Manca spesso, molto spesso, nella vita in rete una qualunque forma di rispetto della dignità delle persone. Grazie. E questo avviene perché probabilmente non si ha la consapevolezza che quella dimensione è una dimensione di vita reale, non di vita virtuale. Certo. Forse dobbiamo aiutare molto con una educazione molto forte, molto intensa, con investimenti a comprendere questo aspetto. E quindi finora abbiamo parlato di questi drammi da un punto di vista più psicologico, sociale, culturale. Vediamo invece dal punto di vista della sicurezza su internet, la cybersicurezza come si chiama, e da un punto di vista anche giuridico. Ne vorrei parlare con Umberto Rapetto, generale e già comandante del gruppo anticrimine della Guardia di Finanza, grande esperto di questi temi. Rapetto, buonasera. Buonasera a voi. Quindi, allora, la 31enne napoletana, abbiamo detto, aveva visto diventare purtroppo un fenomeno, un boomerang nei suoi confronti, questo gioco che all'inizio è stato, insomma, diciamo, un gioco hard piuttosto pericoloso, no? Di far filmare questa questo atto sessuale, di mandarlo ad alcuni amici, e poi dopo è diventata una bomba, insomma. Però aveva chiesto a un certo punto di cambiare identità, chiedeva il diritto all'oblio, il famoso diritto all'oblio, che significa, insomma, essere cancellati dal web se c'è qualcosa, insomma, che di compromettente o che non vogliamo più che sia associato a noi. E però come funziona, Rappetto? Nel senso che il giudice le ha dato ragione dopo diverso tempo e nello stesso tempo l'ha condannata a rimborsare le spese legali a 5 siti. Quindi da una parte ha chiesto il giudice, ha obbligato alcuni social come Facebook e WhatsApp eccetera a rimuovere video e commenti nei suoi confronti, dall'altra però l'ha condannata a rimborsare le spese legali a 5 siti. E poi alla fine questo oblio pare che non ci sia stato. Diciamo che la rete ha una memoria possibile cancellare. Purtroppo il fatto di poter essere dimenticati, se può valere in un rapporto interpersonale, non ha alcuna efficacia nel momento in cui chi è custode di determinati contenuti li porta con sé, li propaga in un processo di contaminazione irreversibile, dove, come se si proiettasse mai una luce in una galleria di specchi, immediatamente tutti questi vengono illuminati e automaticamente si ha una sorta di diffusione a carattere endemico e soprattutto si raggiunge quella che nessuno vorrebbe mai, la si vuole forse nella vita, ma l'immortalità in questo caso è quanto di più deleterio. Soprattutto perché man mano questi contenuti vengono scaricati da chi ne ha avuto una percezione sul proprio schermo e magari un domani riportati alla luce a dispetto di qualunque attività di cancellazione, se vogliamo anche di blocco nel dover raggiungere una certa destinazione telematica dove quei contenuti vengono pubblicati e poi resi, tra virgolette, non più raggiungibili. Qualunque iniziativa volta alla rimozione di quei contenuti non trova risposta efficace e soddisfacente per chi ne possa essere la vittima. Teniamo conto che molto spesso i siti web sono collocati fuori dalla competenza e della giurisdizione di quella che possa essere l'architettura giudiziaria e, se vogliamo, la valenza normativa del nostro paese. Ci si trova con dei ritardi che sono già innescati in partenza dal ritardo, il ritardo è dovuto alla vergogna anche di chi deve presentare un certo tipo di denuncia e soprattutto da tutti quegli intoppi di mancata, se vogliamo, reciprocità giuridica che caratterizzano gli assetti normativi di paesi diversi. Questi contenuti diffusi sul web trovano poi una dislocazione fisica in nazioni che non necessariamente sono l'Italia. E quindi è una sorta di pallottola spuntata, esatto, nei confronti di chi ha creato qualcosa senza immaginarne le vere conseguenze. Il vero problema forse è più di carattere così educativo. Dovremmo forse immaginare quella che un tempo era una materia delle scuole medie, che è l'educazione civica, che forse oggi dovrebbe avere una sfaccettatura telematica. Dovremmo insegnare il rispetto. Poi naturalmente dall'altra parte uno invoca l'applicazione delle leggi, ma se ci fosse forse maggiore rispetto probabilmente e maggiore consapevolezza, perché utilizziamo i social network, utilizziamo dai dispositivi mobili che ci danno la possibilità di fruire il bello che può essere dato da internet e molte volte affrontiamo con leggerezza la diffusione di contenuti di cui è poi inutile pentirsi e aver dato avvio a questa sorta di movimento invisibile attraverso il mondo. Comunque, generale Rappetto, quindi lei sta dicendo da una parte insegnare il rispetto, l'empatia, su quali però sono piuttosto pessimista, quindi diciamo non conterei molto su quello. Dall'altra forse una maggiore consapevolezza che bisogna avere, almeno quando lo si fa più o meno volontariamente, qualsiasi cosa che si mette o si diffonde su web, su internet, personalmente poi si sa, da quello che lei ha detto, che potrebbe avere vita eterna. Dall'altra, se non lo si fa volontariamente, qualcun altro che lo fa per noi, che si vuole vendicare, non so, quindi mette un'immagine, un video che noi non vorremmo che fosse diffusa, su questo c'è poca speranza, lei sta dicendo, sia per i ritardi ma anche perché sono coinvolte tante nazioni ed è difficile perseguire queste cose magari in un altro stato, già magari nel proprio, generale Rappetto. E purtroppo spesso la stessa vittima a dover superare l'imbarazzo di lamentare determinate circostanze. Invece se succede una cosa del genere bisogna avere la capacità di dichiarare quanto sta accadendo con la massima chiarezza, ma soprattutto senza alcuna reticenza. in maniera tale da innescare immediatamente i processi investigativi che sono necessari per poter individuare il responsabile. E teniamo conto che una rapida cattura e condanna del responsabile può avere un effetto di deterrenza che può essere significativo. Comunque, quindi, infatti, lo diciamo, generale, che la procura ha aperto un'inchiesta per istigazione al suicidio. Poi non so quanto sarà facile capire chi è in questo caso coinvolto e accusabile di istigazione al suicidio, con tutto quello che c'è stato, con tutti i movimenti e le diffusioni che ci sono state, però intanto è già qualcosa. Ci si trova di fronte ad una collettività di soggetti che hanno contribuito a creare un clima sicuramente irrespirabile, ed incredibilmente questa ragazza si è trovata ad essere la persona più sola, pur essendo circondata dalle attenzioni di troppi che cercavano forse di soddisfare una curiosità morbosa che era meglio lasciare riposta in un angolo della propria fantasia. Incredibile, insomma, un dramma tipico dei nostri tempi, anche legato appunto alla questione tecnologica, quindi non solo culturale. Grazie generale Umberto Rapetto, grazie. Grazie a voi, buona continuazione. Serata. Grazie. E vedo tra l'altro un aggiornamento, cioè che l'Aula della Camera voterà il progetto di legge sul cyberbullismo il prossimo 20 settembre. Capiremo un po' che cosa emerge da questo. Vedo intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Maria Grazia o Francesca Daverona, varie riflessioni, però adesso dobbiamo prenderci una pausa e ritorniamo tra pochissimo. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto, e anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Tra poco vi ricordo le notizie più importanti e poi cominceremo ad approfondire altri temi. Abbiamo parlato prima molto della tristissima storia drammatica di questa 31enne costretta al suicidio dopo un anno e mezzo di gogna mediatica, e anche poi di questa ragazzina 17enne che è stata filmata e poi il video è stato messo su WhatsApp mentre veniva violentata. Altri temi adesso. Vedo i vostri messaggi, per esempio Maria Grazia su WhatsApp al 349-238-6666, diceva: se la vita di Tiziana fosse stata un inferno già da prima, ma davvero nessuno si domanda cosa spinge una donna a farsi filmare mentre fa sesso, specialmente nessuno si domanda come mai Tiziana è rimasta totalmente sola. Beh, qui entriamo nei meandri della psicologia individuale, però quello su cui possiamo riflettere è davvero che conseguenze può dare questo uso degli strumenti tecnologici, dei social network, di come possano davvero distruggere la dignità delle persone e la vita stessa delle persone. Poi c'è invece Ilaria, se non sbaglio, no, un'altra ascoltatrice, Francesca da Verona, dice: complimenti, va bene, brutte notizie oggi, due brutte notizie. Cosa penso? Che serve più educazione di fronte a questo obbrobrio, quindi più fondi alle scuole per alfabetizzare i giovani futuri adulti, ma già utilizzatori di questi nuovi mezzi tecnologici, a servirsene consapevolmente e eticamente, dice. Poi Elio, sulla pagina Facebook di Effetto Notte, si rimane estremamente sconcertati, non riuscire a comprendere quanto nefasta possa essere la rete, e poi rimane la riflessione su questa povera ragazza che si è tolta la vita per aver pubblicizzato questo suo rapporto consenziente senza minimamente pensare appunto poi alle conseguenze. Adesso vi ricordo però quali sono le notizie e tutte le altre notizie più importanti della giornata. Referendum costituzionale, dopo le polemiche sul sì al referendum dall'ambasciatore americano in Italia, Mattarella dice: la sovranità è sempre degli elettori. Francia, diversi arresti a Parigi per terrorismo, fermato anche un 15enne pronto a compiere un attentato. Conti, Unione Europea, monito di Juncker, sia la flessibilità ma il patto resta. Migranti, piano europeo da 44 miliardi per l'Africa, il dramma della 31enne suicida, aveva dovuto pagare anche le spese giudiziarie, la donna che si è tolta la vita dopo la diffusione dei suoi video hard sul web. Via libera la fusione tra Bayer e Monsanto. E poi lo sport, Champions League, in campo la Juventus contro il Siviglia, sempre 0-0, ma c'è un altro oro nelle Paralimpiadi, Dario Ricci, vero? è davvero una bellissima notizia quella che condividiamo con i nostri ascoltatori, perché l'oro conquistata da Beatrice Bebevio nel fioretto ha un sapore del tutto particolare. Ha battuto la cinese Zhu, è il settimo oro azzurro alle Paralimpiadi in questa giornata straordinaria, ma ancor più straordinaria è la storia di Bebe, che schermitrice da sempre, a 11 anni ha subito una meningite che l'ha portata ad avere l'amputazione di tutti e quattro gli arti. Non è passato però la passione per la scherma e dopo essere diventata campionessa europea e mondiale è oggi campionessa paralimpica e pensa è l'unica atleta al mondo che tira senza il braccio armato, una campionessa straordinaria, un oro eccezionale che fa il paio con tutti gli altri e con quello di Alex Zanardi. Grazie da Luigi, poi ci aggiorniamo dopo ancora sulla partita. Passiamo invece alla politica. I principali argomenti di politica oggi si concentrano essenzialmente su due fatti di ieri. I due principali esponenti del Movimento 5 Stelle, Di Battista e Di Maio, che sono tornati in TV nello stesso giorno, e le reazioni a quella che è stata vissuta come un'invasione di campo, un'ingerenza da parte dell'ambasciatore americano in Italia, che ieri si è schierato da parte del sì per il referendum costituzionale. Vogliamo sentire però Mattarella, che è intervenuto oggi, perché ieri ci sono state reazioni cospicue a questa dichiarazione dell'ambasciatore, ma oggi intervenuto anche il capo dello Stato Mattarella. Il mondo si è molto interconnesso, quindi ogni avvenimento in un paese importante, e l'Italia è un paese importante, è seguito con attenzione anche all'estero. Naturalmente questa considerazione non muta in nulla il fatto che la sovranità sia esclusivamente demandata agli elettori. Quindi poi Renzi ha detto sottoscrivo le parole di Mattarella, probabilmente l'ha vissuto un po' come un boomerang, no? Questa cosa, e poi è ritornato anche sull'Italicum anche oggi. Betta Fiorito da Roma, buonasera Elisabetta. Buonasera, allora la sovranità appartiene al popolo, è il primo articolo della Costituzione italiana. Ricordiamo che la prima parte della Costituzione italiana non è soggetta ad alcun tipo di modifica. Quello che noi possiamo votare sì o no al referendum per le riforme costituzionali è la seconda parte della Costituzione, che è l'organizzazione dello Stato. Allora, questo endorsement dell'ambasciatore americano Phillips ha fatto molto discutere, però poi è bypassato da un altro endorsement che c'è stato da parte della cancelliera tedesca Angela Merkel. Che però ha approvato le riforme in generale del governo Renzi, come quella del lavoro, no? Il Jobs Act. Allora, il discorso è questo. Dall'estero vedono di buon occhio il superamento del bicameralismo paritario, cioè il fatto che la Camera e il Senato abbiano le stesse funzioni attualmente in Italia. Questo qui provoca un rallentamento nell'iter delle leggi, cioè nella staffetta che le leggi devono fare per essere approvate, tanto per far capire ai radioascoltatori, e molto spesso questo qui provoca il ricorso alla decretazione d'urgenza. E ricordiamo che i decreti legge sono praticamente approvati in modo molto veloce perché dovrebbero avere una caratteristica d'urgenza che molto spesso non hanno, ma si mette insieme un po' di tutto per far sì che l'iter, appunto la staffetta delle leggi, sia abbastanza snella. Questa è in sostanza la cosa. È stato un po' un boomerang fino a un certo punto, perché poi insomma il problema è all'interno del PD per la minoranza e maggioranza, infatti. Però Betta, poi di questo si continuerà a discutere nei prossimi giorni. Volevo farti sentire anche un Di Maio. Ieri dicevo Di Maio e Di Battista erano tutte e due in TV. Di Battista aveva un po' aperto cautamente a un possibile governo di scopo, cioè quindi con un obiettivo, mettersi insieme tra vari partiti per raggiungere un obiettivo temporaneamente e poi passare ad elezioni. Poi oggi lui ha corretto il tiro su Facebook e Di Maio, sentiamo cosa ha detto. Noi abbiamo dei punti fermi. Al governo ci andiamo con i voti degli italiani e su questo non si transige, ho sentito anche Alessandro, ci siamo visti e siamo tutti d'accordo su questo. Allo stesso tempo sappiamo che se dovesse vincere il no, probabilmente ci sarà un momento sulla legge elettorale, ma noi abbiamo una proposta di legge elettorale. E la legge elettorale la fa il Parlamento e soprattutto è una legge, bisogna vedere che legge elettorale. Quindi tutte e due poi sono ritornati un po' sul punto correggendo, dicendo no, però ci vuole prima il voto degli elettori. Betta. No, ma allora, su questo secondo me, allora, Di Maio e Di Battista hanno usato dei termini confusi per dire però la stessa cosa, perché poi bisogna essere anche un po' coerenti. Cioè Di Battista in realtà ha detto, è chiaro che se dovesse vincere il no, quindi tutto rimanere come prima, al referendum, e magari il capo dello Stato, cioè Sergio Mattarella, decide che bisogna comunque cambiare la legge elettorale, che è l'Italia in questo momento, perché è stata approvata da entrambi i rami del Parlamento e che però vale solo per la Camera, è chiaro che bisogna fare un passaggio per cambiare la legge elettorale e ritornare al voto. Quando poi gli è stato messo in bocca governo di scopo, lui dice sì, governo di scopo, che vuol dire due mesi che si cambia la legge elettorale e si va al voto. E non è che vuol dire però che un Movimento 5 Stelle appoggia un governo. E lo stesso Di Maio ha detto, il governo 5 Stelle è quello eletto dai cittadini, perché questo è sempre stato uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, è quello che il governo debba poi essere eletto dai cittadini e non debba essere un governo di palazzo come quello che loro accusano sia Renzi. Quindi c'è stata, secondo me, in questo caso c'è molta confusione nel cielo 5 Stelle e sembra che le faide interne non siano finite, ma in questo caso secondo me ci sono stati, c'è stato un malinteso, no, diciamo così, dei problemi di comunicazione. Cioè Di Battista poi alla fine in sostanza voleva dire la stessa cosa che voleva dire Di Maio, e oggi si sono chiariti così. Questo bisogna dirlo, cioè se viene il no al referendum e a quel punto si deve cambiare la legge elettorale, a quel punto è chiaro che si fa un governo di scopo, ma non è detto che 5 Stelle siano dentro questo governo, si fa un momento per votare, il Parlamento deve votare una nuova legge elettorale, punto. Chiaramente, e questo sarà un percorso man mano a quale assisteremo nei prossimi mesi. Grazie Elisabetta Fiorito da Roma, ciao Betta. Ciao, buona serata. Mentre vi lancio gli aggiornamenti per la viabilità, questo messaggio che dice stupisce la cattiveria maschilista delle giovani donne sul web, è vero, a volte succede che siano contaminate da questo maschilismo imperante, per fortuna ancora una minoranza per quanto riguarda le donne. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano con voi, come sempre, vi aggiorno sulle notizie, anche questa che è appena arrivata. L'ex presidente brasiliano Lula è il comandante massimo dello schema di corruzione individuato dall'inchiesta Lava Jato sui fondi neri Petrobras, lo ha detto il pubblico ministero federale durante una conferenza stampa in corso a Curitiba. Vi ricordo che Lula è accusato di corruzione e riciclaggio nelle indagini riguardanti un attico di lusso a Guarulhos, nel litorale di San Paolo, e poi altre questioni. Vediamo un altro aggiornamento. Secondo questo pubblico ministero non esistono dubbi sul fatto che Lula era il grande generale che comandò la realizzazione e la pratica dei reati, oltre a coordinarne il funzionamento ed eventualmente deciderne la paralisi. Adesso però tra poco parleremo di Europa, ma vi ricordo ancora una volta i titoli principali, che sono appunto l'intervento di Mattarella sul referendum dopo le polemiche legate all'intervento di ieri dell'ambasciatore americano in Italia. Dice Mattarella, il popolo è sovrano. E poi monito di Juncker, presidente della Commissione europea, che dice sì alla flessibilità ma il patto resta. Intanto sulle pensioni in Italia scoppia il nodo dei lavoratori precoci, ci sarebbero costi alti. Suicida per il video hot sul web, doveva pagare anche le spese legali questa donna di 31 anni che si è suicidata, di cui abbiamo parlato. E poi la vicenda di questa minorenne violentata in bagno a Rimini, le amiche che filmano con il telefonino. Serie di arresti a Parigi, un quindicenne pronto agli attentati. Spazio europeo. Europa 24 notte. Ne parlavamo già prima di un piano di investimenti per l'Africa per affrontare alla radice le cause delle migrazioni, promuovendo investimenti economici nei paesi di origine e dando così prospettive a chi vorrebbe migrare in Europa. E quello approvato dalla Commissione europea, illustrato dal presidente Jean-Claude Juncker in occasione del suo discorso sullo Stato dell'Unione alla plenaria di Strasburgo. 44 miliardi di euro di investimenti, ma che con il contributo dei paesi potrebbero arrivare fino a 88 miliardi, dice Juncker. Useremo fondi fondi pubblici come garanzia per attrarre investimenti pubblici e privati allo scopo di creare occupazione. Alessandra Schepisi ne ha parlato con l'europarlamentare del PD Cécile Kyenge. Questo è un passo importante, positivo, che in tutto quello che è stato tracciato un po', insomma, come un po' un impasse politica dell'Unione, un passo molto importante, perché si creerà un fondo europeo per lo sviluppo sostenibile dell'azione esterna, cioè intervenire su quelle che sono le cause profonde. E questa avrà al centro proprio la gestione della crisi migratoria, cioè intervenire sulle cause profonde, e ammonta a 44 miliardi, che possono arrivare fino a 88 miliardi se gli Stati membri parteciperanno. E questo piano, che è stato un po' anticipato, anche visto la situazione che sta passando l'Europa, è stato anticipato anche accorciando cioè da ottobre, insomma, a settembre, puntando anche proprio a poter intervenire su quei paesi da dove provengono il maggior flusso di migranti. Quindi la priorità rimane intervenire soprattutto sulla fascia del Sahel, quindi l'Africa occidentale, il Corno d'Africa, senza dimenticare comunque poi anche alcuni paesi del Medio Oriente. Ma per quanto riguarda l'Europa, parlo anche per quello che riguarda l'Italia, perché l'Italia maggiormente punta anche a poter risolvere quello che è la crisi, insomma, delle frontiere del sud, che ricordiamo sono le frontiere dell'Europa, quindi investendo maggiormente appunto sulla fascia del Sahel, l'Africa occidentale e il Corno d'Africa. Questo fondo avrà un impatto sulle strutture dei paesi, quindi dovrà andare a intervenire su politiche di sviluppo e di cooperazione, e qui parliamo anche di settori come quella dell'energia, di trasporti, settori educativi e sanitari. Ma in tutto questo dobbiamo anche far capire che i paesi hanno diverse priorità. Quindi quando io ho parlato anche del fatto che la priorità per quello che riguarda l'Italia, perché se parliamo di intervenire sulle cause profonde, non dimentichiamo che i diversi paesi dell'Europa, secondo anche del loro posizionamento geografico, hanno anche delle esigenze diverse. I paesi dell'est, per esempio, guardano di più verso l'Ucraina, la Russia, problemi di sviluppo o di altro tipo, quindi noi guardiamo verso il Mediterraneo, e quindi questo fondo ci serviranno anche per investimenti veri, quindi non un aiuto cioè allo sviluppo gratuitamente a pioggerella, ma ci vuole comunque ci voleva qualcosa di più forte, anche perché la gestione verrà fatta dalla BEI, ma anche dalla Banca per lo Sviluppo, che sarà una gestione molto molto seria. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Fiondiamoci sulla Champions, sulla Juventus che non emula il Napoli di ieri, Dario Ricci, vero? Finora no, perché siamo al 53esimo di gioco allo Juventus Stadium, la Juventus preme ma non trova il gol contro il Siviglia, risultato bloccato sullo 0-0, ma l'avevamo detto tante volte, Roberta, questi spagnoli sono tosti e forti, e quindi partita ancora lunga, vediamo un po'. Grazie Dario Ricci. Intanto Luciano che scrive: voglio sapere perché se un ragazzo fa sesso viene trattato come un grande, mentre se lo fa una ragazza è considerato una poco di buono, a proposito della ragazza che si è suicidata per il video sul web. Ci dobbiamo aggiornare alle 22.